amici del Move to Groove. Giornata amara, dobbiamo vestirci a lutto per ricordare un grandissimo campione degli anni 90 che purtroppo ci ha lasciato a causa di un brutto male, di Kembe Mutombo. Un grande uomo, soprattutto fuori dal campo, un autentico filantropo, ambasciatore, una delle persone più generose che il mondo del basket abbia conosciuto. Un figlio dell'Africa che ha cercato di rendere la sua Africa migliore di quanto possa essere. Buongiorno a tutti. Grazie Paolo per questa introduzione, per questa palla 2 dedicata a Dikembe Mutombo, di cui daremo approfondimento già dalla prossima puntata. Oltre che grande atleta, come già anticipato, un grande uomo, ambasciatore e benefattore per chi soffre e importante presenza per dare valore aggiunto non solo allo sport, di cui già Dikembe Mutombo è stato grande campione. Ora sta portando importante apporto difensivo al canestro del paradiso insieme ad altri atleti che ricordiamo nella nostra Spoon River del Move to Groove. Come ho detto, ne avremo modo di approfondimento già dalla prossima puntata. Sono le 8.02 minuti e 30 secondi, l'imprevedibile martedì di Radio Città Fujiko con il Move to Groove ci porta la presenza non dell'arbitro, ma dell'arbitro, perché Franco Stanghellini è stato il direttore di gara che più mi ha arbitrato in diverse categorie e in diverse anche categorie di età. E allora finalmente posso dire anche in diretta grazie e buongiorno Franco. Ciao carissimo, come stai? Non c'è male, tu con tutte le vicissitudini del caso familiari, poi vabbè, mi sono anche rilassato perché è stato 15 giorni a Lampedusa, perciò bellissima isola, spettacolare. Vedo una bella abbronzatura anche, che è uniforme, si vede di questo periodo di relax. Non dimentico di dare il buongiorno al nostro rookie, ormai sophomore, del parquet del 103.1, a Pietro Rossi. Bentornato, buongiorno Pietro. Buongiorno Willy. Accendi il microfono magari, guarda. Acceso? Oh, adesso olè, sì che buongiorno. Ti sento bene. Un vero buongiorno. E questo sì che è un sei vero sei già da buongiorno. Tecnico subito di prima trasmissione. Hai capito? No, questo è, come dicevi tu, una chiacchiera. Ma sì, ne parleremo di questi contenuti. Allora, aneddoti ce ne sono tanti. Non amo l'aneddotica che dir si voglia, ma dagli Stati Uniti d'America arriva questa affermazione. Ci sono due cose tra le più difficili: mantenere stabile un matrimonio e arbitrare una partita di pallacanestro. Confermi la difficoltà? Beh, assolutamente. Non ritengo che poi con l'inizio del, quando uno inizia a arbitrare, io vengo dal mondo della pallacanestro. Il mio primo debutto come giocatore, se ti racconto, e l'abbiamo ricordato l'altro giorno, un tempo fa a Rimini, esattamente a giugno, che c'è stato le finali di basket in carrozzina e il patron del a Cesenatico, Stefano Pilastrini, mi ricordava e mi diceva: Franco, effettivamente siamo partiti insieme dal centro avviamento pallacanestro, il CAP allo Sferisterio, che era una cosa, adesso è acqua pulita, ma una volta lo Sferisterio era veramente, con il signor Baratti, stiamo parlando di basket anni 70-80. Di qualche decennio fa, insomma. Di qualche decennio fa. Stefano Magro, adesso è tornato Magro, che ha fatto una cura importante. Importante, Porello, è stato impegnativo, da 180 è arrivato a 110 kg, perciò quindi si vede anche che una forma fisica farebbe bene poi anche a me, però fortunatamente sì, siamo in radio e non si vede. Te sei un pelandrone, perciò. Certo, e lo sai bene, tra l'altro, lo sai molto bene. Detto questo, ho già preso un tecnico anch'io, procediamo con queste domande botta e risposta, perché mi sono preparato una serie di argomentazioni da trattare con Franco, alle quali Pietro e anche Paolo da remoto potete ovviamente ovviamente intervenire in ogni momento. Sferisterio, due caratteristiche: era polisportivo, quindi il campo da basket conteneva le righe anche da pallavolo, pallamano, pattinaggio e tutti gli altri sport, hockey a rotelle e quant'altro. Penso che in quel caso definire un limite del campo fosse veramente difficile anche per l'arbitro. E più o meno i colori erano uguali. Certo, rigorosamente. Aggiungo invece una facilità per gli atleti: i canestri dello sferisterio mangiavano, come si suol dire, cioè ogni volta che andavi alla conclusione era abbastanza morbida l'accoglienza della palla e facile trasformare la realizzazione del tiro. Santa tabella, te la ricordi? Sì, la santa tabella dello sferisterio. Mangiano i canestri dello sferisterio, sì, eh. Sì, le sì, partite sì. Finivano sempre casualmente con dei punteggi altissimi. Comunque, allora, siccome è così difficile, giustamente me ne rendo conto, e oltretutto si dice una partita di basket ben arbitrata è quando l'arbitro non si vede. Non è il tuo caso, ma non è una critica, poi ti dirò perché. E in un aspetto così e caratterialmente, per quel che ti conosco, perché questo passaggio ad arbitrare? Ma perché ci fu un arbitro ex internazionale, Soavi. Soavi, sì. Bravo, te lo ricordi? Hai Soavi. Come? Che è ancora al mondo, suo figlio ha smesso di arbitrare per problemi di lavoro. E ci vediamo al palazzo per vedere una partita. Oh Franco, dai, vieni a fare l'arbitraggio, vieni arbitraggio. Io dice: no, io voglio giocare, dai, vieni. E questo era una partita della Fortitudo, me la ricordo ancora, e c'era ancora il dottore, ti ricordi, quello che lavorava in federazione, mezzo personaggio tipico. Ah sì, vieni, fai l'arbitro. E nel 1984, ti sto parlando di 40 anni fa, feci il mio primo debutto a livello arbitrale. E quindi siamo arrivati a un riconoscimento che ti pregherei di riportare anche in frequenza. Ti è stata consegnata una targa, non un premio, qualcosa di più, proprio un riconoscimento. Quale contenuto? Un ringraziamento per i tuoi 40 anni di arbitraggio e attività sportiva, perché alla fine stare dietro ai giocatori, se veramente ci stai dietro, è un'attività fisica vera e propria. E mentale, cioè, non è che anche. E devi essere. Il problema è che se non sei pronto fisicamente, quando arrivano gli ultimi minuti della partita, che sono quelli più importanti, e l'endorfina del cervello non ti lavora determinati, rischi di fischiare delle S. Ecco, okay. Allora, e questo sicuramente ti comporta a fare degli errori. Io adesso come adesso vivo anche sbagliando e cercando di capire come possa avere e di rimediare. No, è una battuta. però un arbitro sa benissimo quando fa un errore, non c'è niente da fare, certo. Se ne accorge benissimo, perché conosce alla lettera il regolamento. Certo, questo anche è un altro aspetto. Scusa Willy, anche se adesso dicono che gli arbitri adesso non sanno più arbitrare, è un modo di dire, ma gli arbitri sanno arbitrare, sanno quando sbagliano e sanno anche quando devono fare determinate cose. A proposito di errori, citerò un episodio che tuttora mi dà da riflettere, e tu ne sei stato il protagonista. Comunque, per quanto riguarda questo aspetto, che è motivo, se vogliamo, no, apparente di critica, cioè di una presenza importante ma l'arbitro non si deve notare, nel caso di Franco aggiungo, non è esattamente così, un po' per motivi di carattere, che certamente, come avete intuito, è forte, è decisamente presente, ecco, in una competizione, perché Franco giocava con noi, lui non arbitrava, lui gioca e giocava con noi, è facente parte di questo contesto agonistico in maniera attiva, quindi automaticamente è coprotagonista, non è protagonista, è coprotagonista a tutto ciò. Poi parleremo anche di errori a tale proposito, perché è fondamentale. Se sei un essere umano, è possibile di errore. passibile sicuramente di errore, perché se no, ieri sera ti faccio un esempio, ieri sera sono andato a arbitrare un amichevole fra due squadre, ragazzi di Serie D e ragazzi di promozione. Oggi stasera stiamo facendo fatica. Sì, state facendo anche fatica a canestro, fate schifo. Cioè, non è cosa gli dovevo dire. Cioè, ma è, certo. Ma è dentro di me, cosa dovevo dirgli, Willy? Dimmi tu, cioè, no, certo. Hanno fatto quattro canestri da una parte, due canestri da una parte, in due quarti, dico. Ero. Cosa state gli ho detto, fate veramente schifo. Difesa arcigne. No, ma non è tanto difesa, faceva un canestro. Cioè, te puoi difendervi che tu, ma se non fai canestro sì, è dura. Ricordo l'episodio prima dello stacco musicale, durante una partita di campionato, mi pare, di Serie C, una partita in cui magari dopo un inizio importante che tenevo ho avuto un momento di stasi, quindi anche un po' di nervosismo. Franco arbitrava, dirigeva questa gara in un momento in cui proprio vicino a me stava passando Franco in seguito a un errore. Ho guardato lo sguardo dell'arbitro, cioè di Franco Stanghellini, e ci siamo intesi subito, cioè sì, ok, ho sbagliato, dico, allora ovviamente mi sono fatto grande di questo, no? Mi sono fatto forte. Verissimo. La risposta di Franco è stata bellissima e me la ricordo tuttora. Si fermò, mi guardò a sua volta e disse: perché tu finora non hai ancora sbagliato un tiro a canestro? Ecco. Al nostro ospite, se per caso riesce a darmi una risposta, io voglio capire l'involuzione delle terne arbitrali degli ultimi 20-25 anni nella pallacanestro. Cioè, non se ne salva uno, qualsiasi campionato, lega, robe varie, a parte forse un po' l'Eurolega si salva un po', ma io voglio sapere come mai gli arbitri di oggi sono così impreparati, soprattutto in fischi banalissimi, che una volta secondo me sul campo, cioè, non si vedevano proprio zero. Adesso ti ripeto la domanda, se non l'hai ascoltata o sentita, per meglio dire, dal nostro Paolo, che ringrazio ovviamente. Io do una piccola risposta immediata, ma rubo pochissimo tempo. La pallacanestro, secondo me, non è più pallacanestro. L'involuzione arriva automaticamente a cascata in ogni aspetto. Ho parlato fin troppo, lascio la parola a Franco. Allora, ti dico una cosa. La pallacanestro è diventata molto più veloce e i contatti fisici sono completamente diversi da quando giocavo io. Bravo, da 20 anni fa. E perciò anche l'arbitro si deve adeguare a queste tecniche di gioco, parlando con Ettore Messina, anche gli allenatori si stanno adeguando, sì, a un altro tipo di comportamento fisico, movimento fisico da parte del giocatore. Una volta era diverso, era molto più elastico il giocatore, certo, il 4 o il 5, sì, adesso è statico, veloce, dai via la palla. Questo è il concetto della pallacanestro di adesso. Perciò pivot, prende la palla, 3 secondi, 4 secondi sei già di là. Certo, certo. Perciò anche il fischio da parte dell'arbitro è molto più rallentato e sembra che sia un po' fuori asincrono da quello che è il momento del giocatore. Una volta si arbitrava in due, adesso si arbitra in tre. L'arbitraggio in tre è destinato a calare i fischi e quei, sì, pochi che vedi e quei pochi che i non competenti vedono il fischio, cioè una persona del pubblico, io non dico che non competente, però avere un fischietto in bocca è una cosa, vedere la partita a sedere è un altro discorso, però vedere un'azione con tre arbitri è una cosa, vederla con due è un'altra cosa. Certo, certo. Perciò non è che Paolo ha detto sbagliato, la fisicità una volta era di un tipo, adesso è completamente diverso. Io, Franco, volevo chiederti, è più difficile arbitrare ora o 20 anni fa? È solo diverso? Non è difficile. Quando tu hai imparato e capisci i movimenti dei giocatori, ad esempio il mio grandissimo vantaggio è che se un giocatore mi gioca su uno stacco, un doppio stacco, Willy sa che cosa sono, sì, o fa un pick and roll, già da lì un arbitro che ha un pochino di esperienza sa dove va il pallone, perché gli schemi della pallacanestro alla fine gira e riprendila e Sampar qual è? Mettilo come vuoi, ma sono sempre quelli. La difesa uomo, se la gestisci o fai 1-1-3-1, bene o male sai dove arriverà il fallo, perché arriva sul ritardo dell'ultimo uomo sull'1-3-1. Certo, molto semplice, certo. Questa è la pallacanestro. Poi sì, Willy sono le basi, confermo assolutamente, anche se parlare così adesso è molto complicato perché è diventato un aspetto più fisico e più atletico rispetto a una volta dove la tecnica, come sta descrivendo alla perfezione Franco, era un fondamentale. Il fallo arriva sul ritardo, esattamente. Anzi, diciamo non in maniera così assoluta, diciamo 9 su 10. 8 su 10. Arrivano però su una questione di ritardo. Poi ci sono i falli di nervosismo, ci sono i falli tattici, ci sono i falli di furbizia, ci sono tante tipologie. Ma l'infrazione, quando infrazione è la più, chiamiamola, anche se è un'infrazione pura, arriva perché c'è un ritardo difensivo sulla difesa. Così. Poi, ovviamente, se tu vai a portare un blocco sul pick and roll e dall'altra parte trovi un Marco Cavicchioli che si butta per terra se solo lo sfiori, Porello, Porello, a me, che Porello, no. Ne hai presi delle crocche? Ne ho prese molte, anche delle fischiate dubbie, ma pollo io che ci cadevo, ovviamente. Sì, sì, sì. Pollo sì. Io che ci cadevo. No, ci cascavi, ma perché lui è un personaggio, è sempre stato così. Ha fatto una carriera così. Sì, lui, sì, sì, sì. Lui ha fatto una carriera e da allenatore, perché adesso lo... Allena adesso? Allena, ha fatto 2 anni a Granarolo. Ma pensa. Insieme a Marcheselli. Ah, ok. Poi sai che caratterialmente Emilio non è molto dei più facili da gestire. Oltretutto ha una moglie che è ancora più difficile da gestire, ma con me non ha fatto molta strada. Poi io a lei non gli stavo molto simpatico. E poi dopo quest'anno è andato, adesso se l'ho arbitrato la settimana scorsa, è andato a Calderara di Reno. Ah, ok. Insieme al mitico Torri, te lo ricordi? Certo, Torri? Beh, Torri era una figura che arrivava Ricciolone Torri. Che arrivava con la boccia di vino. Lui storico per Budrio, per la Bravo, è stato bravo. Budrio, bravo. È stato uno storico a Budrio. Beh, direi di portare un pochettino di musica. Le domande, le motivazioni sono diverse per la conversazione e non solo per motivi tecnici. Anzi, dall'aspetto emotivo, quando quando rientriamo parliamo, però adesso giustamente hai parlato in maniera con carisma e con grandissima competenza unita alla passione. Parliamo anche di sudditanza un po', con i giocatori più che rispondevano per le rime, che avevano una presenza in campo decisamente forte, e non solo tecnicamente, anche caratterialmente. A tra poco. Good luck at my worst. You're my love. You're my pain. You see green when I see gray. But you're my bad. And I'm your good. There are words misunderstood. So move with me. You are my hand. I'm your three-man, one-man band. You're my feet. I'm your toes. Where you come from, no one knows. I'm your breath. You're my tongue. I feel old when you look young. You're my vision. I'm your sense. And you are butter. I am lens. I am nervous. You are calm. I see lines upon your palm. I am close. We are near. Though the ending is not clear. We are separate. We are one. The division has begun. I'm your future. And you're my past. Even music will. Oggi direzione di gara con l'arbitro Franco Stanghellini e un messaggio che arriva al 333-180-9494. Ci sono faccine sguaiate dal ridere, è scritto in maiuscolo Zancanella. Ah, grande Tiziano, grande. Eccolo. Grande Tiziano, grande persona. Ce l'hanno tutti a morte con lui per l'episodio famoso, che se tu lo riguardi bene è un bellissimo fallo fatto molto bene, molto fine come fallo, perché il gesto così, per me è il gesto, l'arbitro battezza sempre comunque il gesto, mettila come ti pare. Prima della pubblicità hai dato una dritta da niente, l'arbitro battezza il gesto. Questo lo sottolineiamo come... E lo sai anche te, ma certo, però molte volte sai, capisco, però la pallacanestro è stupenda, è lo sport più bello, almeno la pallacanestro che ho vissuto, e ha tante di quelle sfaccettature, e io dal punto di vista arbitrale non l'ho mai vissuta in prima persona, per cui certe cose quando le ascolto le rivivo da un coprotagonista che tanti anni è stato al mio fianco, seppur come direttore di gara, dico caspita, è vero, questa è un'altra delle peculiarità da sottolineare, come quello e la mano sì. Così certo. Che, ma io c'avevo la mano, ma io, così sì, quella sotto e quell'altra dove la tenevi, certo. Oppure quando certo. Fai così e dici no non ho fatto fallo, no. Certo. Avere un atteggiamento tale è fallo, e come, cioè non andare dritti ma chiudere. Io certe volte guardo i giocatori dico non è cosa l'ho fatto io allora. Certo. Comunque si parlava prima della pubblicità, sì, di un aspetto di sudditanza, anche in questo caso non è una critica. Sai che ho incontrato, chi? Non voglio dire una sciocchezza, mi ha arbitrato poche volte, confesso, non mi sono trovato benissimo. Lui è un nome, la serie Maurizi. Oriano Maurizi, esattamente. Mi ha raccontato cose allucinanti dei tempi degli anni 70-80 di un giovane arbitro vicino a lui, in buona fede. Meneghin non è certo uno stinco di santo. Assolutamente no. Prende un tecnico perché questo giovane porta questa sanzione importante che addirittura lo fa andare in panchina. Beh, questo arbitro è stato fermato, Quindi niente, ti chiedevo qualcosa di più a proposito di questa sudditanza, non tanto arbitrale, quanto poi anche dal punto di psicologica. Vista psicologica. Sì, psicologica, allo stesso tempo poi come viene riportata da chi commissaria gli arbitri, cioè dai un tecnico a Meneghin e magari un tecnico meritato e ne paghi delle conseguenze. Ne vorrei sapere qualcosa di più. Ma io Oriano è stato un bravissimo arbitro. Sì. Sicuramente c'è da dire che la pallacanestro di adesso, i commissari che ci sono adesso sono molto competenti. Okay. Io ho massima stima dei commissari di adesso perché fanno proprio dei corsi, la maggior parte sono ex arbitri di Serie A, e ti cito uno che tu conosci sicuramente, Max Filippini. Certo. Alessandro Vicino, che Alessandro giocava nel mini basket della Fortitudo, esatto, e poi nell'Ancora. Nell'Ancora, bravo. E perciò gente che ha vissuto, ha giocato la pallacanestro, perciò e hanno arbitrato la pallacanestro in una determinata maniera, con tranquillità, con serenità, con non con prevaricazione della persona giocatore. Massimo rispetto, però senza mai attraversare verso situazioni negative, parole negative, che purtroppo nel campo tu sai benissimo che ci sono. Molto, molto, molto presenti, sì. Velocemente, dimmi, scusa, ti ho piuttosto interrotto. Certe volte, ad esempio negli anni 70, anni 80, si preferiva parlare molto col giocatore, avere un rapporto... proprio in campo. In cui adesso tu sei molto bravo. Esatto, ma io perché ho un remake di old school. Esatto, old school e anche di educazione che, certo, ho avuto. Adesso con l'arbitraggio in triplo sicuramente c'è molta distanza, molto più rallentato il comportamento dell'arbitro durante l'azione di gioco. Se tu hai visto, l'arbitro è molto più lento adesso. Sì. Quando c'è l'arbitraggio in doppio, invece si corre molto di più. Certo. Perciò il fischio è molto più rallentato. Dimmi pure, l'altra cosa che volevi chiedermi? No, ti chiedevo, siccome io ho avuto, pace all'anima sua, uno zio al quale ero molto affezionato, fratello del mio povero papà, importante arbitro anche di Serie A di calcio. Si parlava prima di come se fai uno sport. Chi Dino è? Piana è stato commissario anche commissario. Per l'AIA. E lui una volta, pensa, io ero molto emozionato, avevo 11 anni, avevo appena iniziato a giocare a basket, era commissario per una partita di calcio e mi portò all'interno dello spogliatoio arbitrale e diede il giudizio a questo arbitro. Una valutazione a questo arbitro. Tra l'altro, nel camminamento dello stadio mi disse: a lui darò 3. E io dissi: ma è come, non mi sembra che meriti Porello, un voto così. Ma no, aspetta che ti spiego. 3 vuol dire che è adatto alla categoria in cui è stato assegnato, perché la votazione arriva da 1 a 5. È così anche nella pallacanestro? No. È una somma di valutazioni durante l'arco della partita. Cioè, se ha fischiato bene, comportamento... Ah, ok. È una pagella. È una pagella che è complessiva e ti dà un punteggio. Okay. Una valutazione totale, però è valutato anche l'arbitro come fischia e se ha che non ha il fischio alternato, ha il fischio uguale per tutta la partita e quello dà una valutazione. Io arrivai su un campo in ritardo di 5 minuti, aia, quando si arrivava un'ora prima su un campo, e mi diedero già 5 punti in meno, per esempio. Certo. Il comportamento dell'arbitro è sempre abbastanza, deve essere sempre lineare. Certo, lineare. Lineare. Prego, Pietro. Avevo una curiosità io. Dicevamo prima che l'arbitro è parte del gioco, parte integrante dello spirito agonistico. Mi viene la domanda: l'arbitro è agonista? Cosa intendo? L'arbitro si fa condizionare, forse non è corretto, però è condizionato dal contesto, per esempio, partite ad alto livello, alta intensità. L'arbitro bravo è quello che riesce a rimanere al di fuori o quello che, nonostante ne sia condizionato, riesce ad arbitrare in un certo modo? L'arbitro in realtà dell'esterno, di quello che succede all'esterno del campo, valuta solo quello che succede. Due che si menano, un tentata rissa, questo è quello che guarda l'arbitro. Gli interessa cosa c'è nel rettangolo di gioco e degli ufficiali di campo, stop, non gli interessa nient'altro e non è può avere un condizionamento non psicologico, un condizionamento per quanto riguarda i provvedimenti che deve prendere, che è diverso in relazione a quello che sta succedendo. Ok, certo. Intanto noi andiamo in pubblicità alle 8:33 minuti. Rientriamo perché abbiamo, a parte che ci vorrebbero 10 puntate, secondo me. Perché no? Magari sarai co-conduttore del Breakfast Club e farei un po' direttore di gara anche all'interno del nostro Move to Group. Una sola cosa ti chiedo: devo fare un abbraccione forte a Stefano Michelini, grande amico, grande allenatore, che purtroppo ha passato un periodo molto difficile. Mi unisco anch'io all'amico Stefano Michelini per ovviamente un percorso che sia di immediata ripresa. E tra poco, con la pubblicità, poi ritorniamo in diretta subito con il Move to Groove. Tra poco. basta vedere quando giocava nel campionato italiano e quando giocava alle coppe. Cioè, in coppa dopo 3-4 minuti ha già tre falli, eh. Quando giocava invece nel campionato italiano era quasi un intoccabile. Comunque tenere un arbitraggio lineare per tutta la partita, per quello che posso intervenire io, secondo me sei già un buon arbitro, eh. Tornando in diretta, allora vedo dai gesti che hai la conferma delle parole che ha appena portato Paolo Onofri. Paolo Onofri ha in percentuale ha anche perché gli arbitri internazionali hanno un arbitraggio diverso dal campionato italiano. Se tu vai a giocare in Grecia, vai a fare una partita con dei giocatori greci, o per dire a Pesaro quest'anno ci sono stati gli europei di basket over 40, 50, 60, 70 sì, e fatte, 75. Sì, no, allucinante. Tu devi vedere gli over 75, che spettacolo che erano. C'era una squadra americana fuori corso, una pulizia di tiro proprio. Ah, quello sì. Una pulizia di tiro, lo stacco del polso, che sai quanto quante sedute di tiro che ha fatto, hai capito? Sì, anche tu per suo modo per i tiri liberi, comunque stai zitto, non parlare, non dire. Va bene, io io mi attengo al direttore di gara. No, ma io ti dico delle verità di gioco. Certo, non è che ti racconto, perché io poi sono bastardo dentro, che glielo metto dentro. Allora. No, come c'era un altro che non tirava mai i tiri liberi, era Gregor Fucsia. Che quando era che bel paragone. Gregor faceva delle sedute di tiri liberi dopo da almeno 200 tiri liberi a seduta di allenamento. Ecco, con un altro che faceva sempre tiro dopo era Riccardo Morandotti. Sì, allora ritorniamo a bomba sul messaggio. L'arbitraggio è molto meno permissivo a livello europeo, molto meno permissivo. È più severo, è un po' più severo, i contatti devono esserci ma devono essere puliti. Tu sai benissimo che avendo giocato dei ruoli 4 e 5, certo. Perciò un misto fra 4 e 5, da uomo d'area esterno, da sotto canestro, o subivi un bel fallo, se no l'arbitro non può. No, certo, questo però c'è una notevole, c'è un po' di differenza. Poi tu vedi là, forse te lo ricordi di più perché era un nome un po' Jungbrand. Sì, era un arbitro che fischiava abbastanza velocemente se vedeva dei contatti sbagliati. Certo, è stato nell'immediato. È arrivato un messaggio anche da Gianluca: attualmente in A2 c'è un arbitraggio di bassissimo livello e soprattutto con arbitri arroganti e presuntuosi. L'arbitraggio in A2 è solo compensazione. Sono parole pesanti, però insomma è una critica che arriva. Diciamo che arbitraggi di A2 sono sicuramente un bellissimo trampolino per la Serie A, che è un altro tipo di arbitraggio. Pensa. Sono due modi di arbitrare. Non una partita di A2 è come se tu mi prendi una serie D e una serie C. Ok, c'è differenza di quel po'. C'è una notevole differenza. Non c'è differenza fra la famosa adesso DR1 e DR2, che è la promozione e la Serie D, che se tu ti ricordi quando giocavi la promozione c'era dei signori giocatori. Sì, uno certo. In particolar modo Alessio Cantergiani, sì. Che tu Ciccio Cantergiani. Bravo. Certo. Perciò stiamo parlando di una Bologna Basket City veramente importante. Dalla promozione su, ma anche una volta c'era anche la seconda divisione. Sì, mi ricordo. E se la federazione continua su questo modo, rischia di perdere tantissime squadre di basso livello, basso livello, io sì, non lo insomma dico, sempre però iscritti sempre, ecco. E perde secondo me sono sempre iscritti, però perché iscritti. Le tasse gare incominciano a essere pesanti, diminuisce tanto, certo, gli impegni, i costi. Ritengo che l'arbitraggio di A2 non è così tristo e incompetente. Ritengo che l'arbitraggio di A2 è adeguato al livello di A2. Molte volte le cose comprese, si parlava prima, no, dell'allenatore, ecco, ricordiamoci però che se certi cambiamenti, come è stato denunciato da alcuni importanti coach, ma adesso le cose sono cambiate, loro ne sono corresponsabili di tutto ciò. Ma chi è che fa il bordereau, il regolamento a livello FIBA, lo sai? Chi lo fa il regolamento? Sono i 5 migliori europei, allenatori europei. Ecco, quindi direi che influisce un bel po' tutto ciò, un attimino influisce. Ettore Messina e Obradovic, eccoli, sono presenti in questo starting five. Bravo. Comunque, detto questo, in 5 minuti vorrei parlare, visto che ci siamo incontrati casualmente per una passeggiata ai Giardini Margherita, tu mi hai detto non hai idea dell'importanza della pallacanestro con diverse abilità, e mi hai detto che per te è un'esperienza molto forte, allo stesso tempo ti ha cresciuto tantissimo, hai arbitrato il basket per persone con diverse abilità, ci puoi dire qualcosa di più? Assolutamente, io sono un ex arbitro federale di basket in carrozzina della Federazione Italiana Sport Disabili e ho arbitrato paragonabile alla Coppa dei Campioni del basket in piedi, tante realtà di basket, e quest'anno, no, anzi due o tre anni fa, insieme a altre due persone, Matteo Marello e Mirko Casalgrandi, insieme alla WISP nazionale, stiamo cercando e stiamo facendo un buon lavoro da 5 squadre, siamo arrivati quest'anno a 14 squadre a livello nazionale, stiamo organizzando questo campionato di basket in carrozzina per aiutare dei ragazzi che praticamente non uscirebbero mai di casa, e ci siamo inventati il colore rosso, perché noi lavoriamo con, a me piace, rosso, arancione, giallo e normodotato, perché ci vuole anche il normodotato in campo che dà un aiuto anche fisico e psicologico a questi ragazzi, e questi ragazzi praticamente non devono arrivare a canestro, ma se sono dentro l'area e riescono a ricevere il pallone e tenerlo fermo, è come se avessero fatto canestro, perciò con delle disabilità limitanti, ma non molto, ma sia mentali che anche fisiche, perciò ti ritrovi un ragazzino che non sarebbe mai uscito di casa, e l'anno scorso all'Eurocamp da Stefano, da Pilastrini, un genitore ha visto sorridere suo figlio per la prima volta e ha detto: per la prima volta in 16 anni ho visto mio figlio ridere, e sono il padre, sono la persona più felice di questa terra. Ci credo. Cioè, ti danno un'emozione che è veramente motivo di crescita, motivo ed di emozione. No, ma aiutare questi ragazzi è... E quest'anno facciamo sabato e domenica facciamo la Supercoppa italiana con 4 squadre: Rieti, Treviso, Torino e Genova. E perciò, quindi è una cosa molto estesa e importante, non sì, solamente... A forza di rompere i M, lo sai come mi conosci, a forza di rompere gli M, qualcosa stiamo arriva. Facendo una certo. cosa molto bella per la disabilità, per tutti questi ragazzi, che se ci sono dei genitori che hanno dei figlioli che hanno qualsiasi patologia, non mi interessa, che vengano. C'è una squadra di Bologna che non riesce a organizzare quest'anno, non riesce a organizzare perché non ha giocatori. Aiutate questi ragazzi, perché è importante. Per contattarvi, o per contattare tutto ciò, visto che per contattare c'è la sede WISP a Bologna, okay, che è in via dell'Industria numero 20, oppure in privato a te, io, se delle persone ti contattano, certo, gli dai il mio numero e non c'è problema. Tanto io sono il coordinatore nazionale degli arbitri, perciò non ho nessun tipo di problema. Questi aspetti di contatto ti vengono agevoli. Sono, grazie. Sono importantissimi per tutti, non solamente certo, per loro. Certo, grazie. Consiglio ai giovani. Giovane arbitro, dice ok, mi piace la pallacanestro, poi però il fascino, così mi piacerebbe. Consiglio che dai a un ragazzo di 15 anni, non so che dice... Che faccia l'arbitro. Vorrei intraprendere questi percorsi. Ma ti posso assicurare che io posso dirgli solo che è un'esperienza bellissima. Sei a contatto con tanta gente, se poi riesci a fare un minimo di carriera... Vai a conoscere l'Italia in quel, da Torino a Trieste, da e Roma da Milano a Trapani, che in realtà una persona normale non potrebbe permettersi, certo, di fare queste cose qui. Devi amare in una maniera assoluta la pallacanestro, però è un'esperienza che io consiglierei a tutti i ragazzi. Certo, è impegnativo, è un sacrificio, perché anche se arrivi a DR1, cioè la serie D di una volta, devi essere un'ora prima sul campo tutti i sabati. È un impegno, come è un impegno per i giocatori, certo. È la stessa gravosità, se lo fai a livello amatoriale è un altro discorso, ma se lo fai seriamente a livello nazionale è un lavoro come una qualsiasi, è una cosa di serietà, ma anche nel rispetto dei giocatori. Io, guarda, ho sempre detto una cosa: io sono in campo, ma prima e sempre comunque per me ci sono i giocatori. Io sbaglio, perché per l'amor di Dio non sono infallibile, però io ho massimo rispetto per i giocatori fuori e dentro dal campo. E questo direi che è la chiosa veramente che dà ritratto a Franco Stanghellini, nonché ennesimo aspetto particolare che durante uno dei suoi discorsi in campo, io lo guardo, discorsi di monito, io lo guardo come per dire, ma insomma non ti sembra di esagerare? Dal mio sguardo lui risponde: secondo te è meglio una chiacchiera o un fallo tecnico? Ho detto no, Stanga, continua pure a parlare finché vuoi. È meglio una chiacchiera o un fallo tecnico? No, parla pure, Franco, di quello che vuoi. Quello che vuoi. Continuano ad arrivare domande, grazie per la partecipazione, non so se per il clima del palazzo, ma spesso vedo gli arbitri in casa Fortitudo fare troppo i protagonisti. Un ricordo al grande Dikembe, che lo porteremo tranquillo assolutamente, Fabio, per quanto riguarda questa conclusione. Capita, purtroppo le cose di cui abbiamo parlato finora vanno a comprendere anche l'argomentazione che tu hai appena portato. Io ringrazio tantissimo Paolo Onofri da remoto per il suo contrappunto. Abbiamo tenuto un attimo in panchina, ma minuti di qualità a Pietro Rossi. Grazie Pietro, grazie, grazie Franco, ti aspetto, sì, hai visto, Franco, vedi la pallacanestro sotto un altro, si impara sempre ti poi aspettiamo poi questo è l'aspetto di arbitro, e poi devi anche vedere l'aspetto di istruttore degli arbitri, perché ma guarda, ce n'è oltre formatore, proprio formatore degli arbitri, e quello è importante, perché se tu riesci a formare dei buoni arbitri o dei discreti arbitri, non sto dicendo, riesci a far andare via bene il gioco della pallacanestro. Eh certo, e noi amiamo la pallacanestro, ovviamente, anche se io ho qualche sfumatura passatista, ma tutto ciò poco importa, sarà l'età e il mio essere brontolone. Vi do appuntamento a domani con il Voltiamo Pagina, ringrazio la formazione in studio, do appuntamento a un altro incontro con il Mood Group, a Franco Stanghellini, davanti al quale mi inchino e ringrazio, stringo la mano come dopo ogni partita. Grazie Franco, ciao Willy, ormai noi non siamo più alla mano, ma ormai ci abbracciamo. Certo. Infatti dicevano, ma come mai te Stanga abbracci Willy? Ma te fatti gli affari tuoi, perché io che non è la prima volta, che poi certe volte non è che dico fai gli affari tuoi, però insomma dai l'idea, ecco.